Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. C'era un ritrovo in un ristorante fuori mano. Le cene incontro si tenevano il mercoledì sera. Bisognava andare alla cassa, fare un cenno, e come i carbonari facevano passare da dietro il bancone per andare in taverna. Mi vergognavo da morire solo a pensarci, ma avevo deciso. Dovevo andare. Mi chiamo Grazia, ho 65 anni, sono in pensione da un po' di tempo e vivo a Verona. Buongiorno a tutti, sono le 16:02, in incredibile anticipo sulla tabella di marcia solita nostra. Siamo di solito in onda verso le 16:05, 06, ma oggi non c'è il GR e quindi siamo talmente in anticipo che mi stavo scordando di entrare in studio. Visto che non sono riuscito a farlo fuori perché aspettavo il GR e aspettavo di entrare, a sto punto faccio in diretta una cosa che di solito faccio a casa o in redazione, ed è che Margherita mi ha stampato tutti i racconti che sono arrivati, da quando, Margherita, da luglio ad agosto, da agosto a... No. Ah, ok, quindi queste sono solo il mese di agosto. Ho tra le mani i racconti che le persone che vogliono partecipare a questo programma hanno spedito durante l'estate. Perché ci sono dei racconti scritti a mano, Margherita? C'è qualcuno che ha scritto? C'è qualcuno che ha fatto una scansione delle pagine di blocco notes e ce le ha inviate? Ma sono tantissime. Voi siete qui, @radio24.it, sappiate che avete ancora un sacco di tempo per mandare le vostre storie, che siano storie che raccontano qualcosa di voi, perché c'è sempre quel problema lì, che ogni tanto arrivano episodi che non sono, non è che non siano interessanti, è che non sono in qualche modo rappresentativi, non si capisce chi c'è dietro quella storia, non si capisce la persona. Insomma, è come se quel piccolo episodio che ci raccontate fosse lo schema, fosse la struttura di tutte le storie che voi leggete, vedete o ascoltate, no? Che sapete che è sempre la solita, che voi vediate un film, che ascoltiate anche una storia qui a Voi Siete Qui, oppure che leggiate un libro, c'è uno schema che è sempre quello, che è quello della fiaba o quello del mito, no? Del mito greco, ed è quello dell'eroe che parte per un viaggio e va a intraprendere delle prove, ha dei nemici, ha degli amici che lo aiutano, sconfigge il drago, sconfigge il cattivo entrando nella caverna più recondita e poi torna a casa. Quando torna a casa qualcosa è cambiato, cioè ha perso qualcosa di sé e ha guadagnato qualcosa in più. Quindi è sostanzialmente una persona diversa e forse una persona migliore. Non è necessario che siate una persona migliore alla fine dell'episodio che mi scrivete, che ci mandate, è però necessario che abbiate compiuto un piccolo viaggio in quell'episodio lì. Voi siete qui, @radio24.it. Ci sono un sacco di storie che arrivano da Mogadiscio, mal di Somalia. Ma scusa Margherita, qua mi sa che abbiamo stampato tipo un libro. Ci sono delle foto del Golfo di Aden. Allora, mi sembra che ci sia qualcuno che è stato in Somalia, che ci ha mandato una storia. Forse ha sbagliato il programma, era quello di Giampaolo Musumeci. Forse era Giampaolo Musumeci che aveva bisogno di lettera sui viaggi in mare. Relazione agli azionisti datata fine 1910. Niente, mi sa che questo malloppo qua nasconde qualcosa di misterioso. 349-238-6666. Oggi continuiamo a raccontare storie e lo facciamo... Ah, addirittura, ecco, scusami, questo me l'ero dimenticato. Qualcuno mi ha spedito un manoscritto. Io vi ringrazio. Vi ringrazio molto per quando mi mandate i libri o le cose che scrivete. Cioè, io li metto lì e poi prometto che... Non vi posso promettere che li leggo tutti, ma un occhio ce lo butto quasi sempre. Sapete, siamo in tre qua dentro. Io, Bonini, che ha già le sue cose da fare, e Margherita Ina, che di cose da fare ne ha molte di più di me e Bonini messi insieme. Però ringrazio Angelo, credo, non riesco a capire, che mi scrive da ascoltatore. La tua trasmissione, ho sviluppato un'ammirazione per il tuo modo di... scritto a mano, quindi di argomentare e trattare i temi. Per questo ti invio il mio scritto sperando che tu possa trovare tempo per leggerlo. Grazie mille Angelo, presuntuoso come il pranzo di Natale si intitola il manoscritto che mi hai mandato. L'unica cosa che vi dico però è che non siamo una casa editrice, quindi non, non pubblicheremo i vostri romanzi. Ci sono delle case editrici che lo fanno, e tra l'altro ho scoperto recentemente, conoscendo una ragazza di Novara che ha pubblicato con un grande editore quest'anno, che funziona ancora, mandare i manoscritti anche se lavori in banca, come nel suo caso, se sono scritti bene o se hanno un qualche senso economico, chiaramente, perché poi le case editrici quello fanno, vendono i libri, le robe le leggono e probabilmente le pubblicano anche. Lei si chiama, ora vi dico anche il nome, Maria Paola, però non mi ricordo più, ma Maria Paola Colombo. Maria Paola Colombo, la conosci Margherita? È di Novara lei? Allora, te ne ho parlato io, perfetto. È la sorella, ok, la sorella di un amico comune. Ma adesso basta farci i fatti nostri. Torniamo alla storia di oggi, che è la storia di Grazia. Ecco, questa ad esempio è una storia molto particolare. Cioè, la storia di Grazia non è una storia comune. È una storia che ha a che fare con prendersi un impegno e mantenerlo, ma soprattutto ha a che fare con il mettersi in prima persona, di impegnarsi in prima persona e fare qualcosa per un amico. 349-238-6666. Se avete un profilo Facebook e ci siete davanti, voi siete qui, Radio 24, e se avete voglia di raccontare quando è stato che vi siete messi veramente in gioco per un amico. Cioè, che avete... Di solito mettersi in gioco vuol dire rischiare qualcosa, cioè rischiare qualcosa di sé, rischiare di perderlo, rischiare di avere, insomma, di passare qualche complicazione. Ecco, se lo avete mai fatto, 349-238-6666. È arrivata una mail magnifica stamattina a questo proposito, su questo tema, che parla proprio di quando e quanto ci si possa mettere in gioco per un amico. Ha a che fare con il concetto di mettere in gioco il proprio corpo. Insomma, è una bellissima mail che vi leggo, se riesco, più tardi. Ce l'ha mandata Gianluca, e se volete leggerla si trova già sul profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui, Radio 24. Insomma, la storia di Grazia, vi dicevo, è una storia che è accaduta molti anni fa, che parla di donne, parla di incontri, e in questo caso si parla di mettersi in gioco soprattutto per quanto riguarda la propria reputazione, più che per il proprio corpo, anche se, insomma, qualche rischio poteva essere nascosto anche in questa storia. È una storia molto particolare, quella di Grazia. Mettetevi comodi, sono le 16:09 di un mercoledì qualunque, 19 dicembre. Sono giorni presissimi, questi, c'è un sacco di casino, avete un sacco di robe da fare, prendetevi questi 40 minuti, neanche ormai, 30, e ascoltatevi questa storia. Ho dovuto farmi violenza. Non era una cosa immorale, ma sicuramente era una cosa sconveniente. È successo più di 20 anni fa. Non c'era ancora internet, i social network e, incredibile, nemmeno i telefonini. E quindi una signora per bene non avrebbe dovuto fare certe cose o frequentare certi ambienti. La storia è questa. Dopo la separazione e una lunga pausa di riflessione e isolamento, avevo deciso di cercare una persona, un'amica, che avesse i miei stessi interessi, per potermi distrarre un po'. Tramite conoscenze ero arrivata a Giulia, carinissima, stessa età, stessa solitudine e poco tempo. Siamo entrate subito in sintonia. Ci vedevamo alla domenica per un cinema, una pizza, una passeggiata, e poi passavamo ore al telefono. Siamo diventate veramente amiche inseparabili. Era l'amica di un'amica di un'amica, cioè io ho proprio cercato una persona così, non lei in particolare. Poi in effetti lei era molto timida, ma molto determinata, consapevole, era sempre perfetta, sempre mai un capello fuori posto, mai un'unghia senza smalto. Guarda, io non l'ho mai vista in tuta o in disordine in tutti gli anni che ci siamo frequentati. È durata qualche anno. Poi, avendo deposto le armi ed essendomi riconciliata col mondo maschile, ho accettato di frequentare un collega che mi faceva pressing da un po'. E Giulia? Non avrei potuto lasciarla sola dopo quanto mi aveva dato. Lei lavorava in un'altra città e avevo orari impossibili, quindi nessuna possibilità di conoscere gente. Dovevo fare qualcosa, magari trovarle un fidanzato. Sicuramente non le sarebbe dispiaciuto. Mi era già successo da giovane di combinare un paio di amiche e il risultato era stato buono. Ora però non avevo amici o colleghi disponibili, per cui non mi restava che andare in un club per single. Si sapeva che c'era qualcosa del genere, ma se ne parlava come fosse un luogo di perdizione. Donne e uomini che andavano per incontrarsi, uno scandalo. C'era un ritrovo in un ristorante fuori mano. Le cene incontro si tenevano il mercoledì sera. Bisognava andare alla cassa, fare un cenno e come i carbonari ti facevano passare da dietro al bancone per andare in taverna. Mi vergognavo da morire solo a pensarci, ma avevo deciso, dovevo andare. Ho sempre fatto fatica a guidare di sera, ma in quell'occasione ho deciso di sfidare la sorte. Là c'era di tutto un po'. Signore e signori sopra gli anta, signore tirate a lucido, da noi si dice a malta fina. C'era il vecchietto arrivato col Mercedes che avvicinava solo bionde prorompenti, il contadino invece un po' impacciato che non sapeva come muoversi, il bullo col capello impomatato che cercava evidentemente delle avventure, ma anche gente comune, come me, e come cercavo. Si andava per conoscere, quindi ho parlato con diversi uomini. Tra questi ho selezionato Antonio, un signore gradevole, vedovo, quindi niente ex mogli o assegni di mantenimento. Un buon lavoro e che, fatalità, abitava nel mio stesso quartiere. Abbiamo chiacchierato molto, ci siamo scambiati il numero di telefono e ci siamo sentiti varie volte. Quel che mi riguardava era sempre molto generico, ma gli chiedevo un sacco di cose che poi andavo a verificare. Insomma, mi sembrava una persona a posto, adatta a Giulia. Mi ha colpito intanto che era vedovo e quindi io, che venivo da una separazione, sapevo tutti i problemi che si possono avere con un ex marito e quindi anche con un'ex moglie. È una persona semplice, garbato, educato, e poi la cosa che mi ha colpito è che abitava nel mio stesso quartiere. Lui cercava veramente una compagna e quando mi ha chiesto di rivederci gli ho detto che io non ero interessata, ma che gli avrei fatto conoscere la mia amica. Come si fa? Ho organizzato una cena a casa mia, dopo aver preparato gli interessati e... bingo! Visti e piaciuti. Sono passati molti anni. Loro sono ancora insieme. E noi siamo rimaste amiche. Well, I found out about her. Her name is Mississippi Isabel. She grows wild strawberries. She's made of ivory and pearl. To look at the universe, she'd abandon the world. I'd go with her to the darkness, abandon my life for this girl. I rode her on my bicycle, all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle, all the way in the rain. Quante volte mi sono davvero messo in gioco per un amico? E non parlo di prendere le sue parti o di difenderlo davanti a qualcuno. Io non mi sono mai davvero trovato in una situazione in cui fossi fisicamente coinvolto in difesa di un amico. Sì, certo, quelle volte durante le manifestazioni al liceo in cui ci si ritrovava davanti a qualcuno che magari non la pensava esattamente come te e voleva fartelo capire con le buone o con le cattive, o anche quando in montagna ci si scontrava tra quelli del mini golf e noi della seggiovia. Ma non mi è mai successo di mettere me stesso, il mio corpo, la mia essenza, davvero in condizione di essere in pericolo. Perché è vero che Grazia non è che vada in guerra per la sua amica Giulia, però per lei si infila in un locale in cui probabilmente non si sarebbe mai infilata, dove rischiava di mettere a repentaglio il suo nome o la sua moralità addirittura. Una volta ho letto che nei paesi occidentali il corpo non è più messo in discussione se non per motivi sportivi o alimentari. Mi alleno per correre la maratona o riduco i grassi per perdere peso. Nei paesi in cui invece la gente ha bisogno di lottare sul serio per qualcosa, per i propri diritti o per la libertà, mettere il proprio corpo in discussione fa la differenza fra lottare davvero oppure no. Mettersi a sfilare in una manifestazione in cui puoi essere arrestato o catturato, magari malmenato. Mettere la propria faccia in vista e rischiare di perdere il lavoro o vedersi la casa bruciata. Mettere il proprio corpo a rischio per qualcosa non entra più nel novero delle nostre possibilità. Lo stesso vale con gli amici. A parole io sono pronto a difendere, ad argomentare, spiegare, magari anche osteggiare un amico. Ma se uno di loro mi chiedesse di accompagnarlo in un luogo lontano a recuperare qualcosa di molto prezioso per lui, ad esempio, o se mi implorasse di partecipare ad una missione pericolosa, io non lo so se lo farei. Alla fine non è così difficile trovare delle scuse, no? O addurre spiegazioni per dire di no. L'ultima cosa fisicamente coinvolgente che ho fatto, a parte qualche trasloco, è stato un viaggio in auto da Milano a Londra per aiutare Federico a caricare la macchina di tutta la roba che doveva portare via dalla casa che stava lasciando. Far incontrare un amico e un'amica perché si pensa che possano andare d'accordo è una cosa, ma andare in un luogo sconosciuto in cui non saresti mai andato e magari te ne vergogni anche un po' è un'altra. Forse bisognerebbe immaginarsi in una situazione al limite, qualcosa tipo una nave che affonda o un luogo in cui l'acqua sta salendo lentamente allagando tutto. Una situazione estrema in cui si ha davvero a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. Ecco, in quella situazione forse riusciremo a capire chi siamo e cosa faremo davvero in un'occasione così. Che forse poi non basta neanche immaginarla. Bisogna semplicemente essere lì per capire quanto di noi siamo in grado di mettere in discussione per un nostro amico. Oppure ci infiliamo nel retrobottega di un ristorante e gli cerchiamo l'anima gemella. God, girls, fuzz and pearls, flesh, blood, polar bears and crocodiles. The city, the wild, the end of time. The city, the wild, the end of time. Tutti i brani che mandiamo in onda tutti i giorni li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Quella è una specie di collettore, è un luogo in cui potete recuperare le cose che non avete sentito o vi sono particolarmente interessate, oppure le cose che volete approfondire. Per cui trovate la foto che vi racconto tutti i giorni, oggi nella fattispecie quella di Grazia, trovate i podcast nella sezione podcast per riascoltarvi il programma, trovate addirittura ancora l'ebook, c'è ancora scaricabile gratuitamente l'ebook con le 100 storie scelte dalla prima stagione di Voi Siete Qui. 349-238-6666. Ecco, era quello che vi dicevo prima riguardo alla storia di Grazia, è proprio questo, che aiutare un amico e mettere il proprio corpo in difficoltà, cioè mettere la propria reputazione anche a rischio, è una cosa che non capita esattamente tutti i giorni. 349-238-6666. Grazia invece un bel po' di anni fa ha preso, si è vestita bene, è andata al ristorante ed è andata in taverna. Pronto, Grazia? Sì, sono qua, Matteo, ciao. Come stai? Bene, bene, grazie, bene. Senti, ho detto 20 anni fa, ma quanto tempo fa è successo realmente? Sì, più o meno 20 anni fa, insomma, perché sì, più o meno, ecco, adesso il periodo esatto non me lo ricordo, ma... Una ventina d'anni fa, anni 90. Sì. Quindi più o meno, non per farmi i calcoli della tua età, più o meno quanti anni avevi però? Beh, guarda, io mi sono separata a 40 anni, avevo 45 anni quando sono stata un bel po' da sola, poi ho cercato questa amica tramite conoscenze, ci siamo frequentate, quindi... circa 20 anni fa, insomma, un po' meno, ecco, più o meno, insomma, francamente il periodo esatto non me lo ricordo. Ma comunque... sì, ma no, più o meno, era per capire l'epoca. Ma senti, Grazia, sì. Di che zona d'Italia stiamo parlando? Verona, il ristorante era tra Verona e Mantova, quindi in mezzo, proprio, diciamo, in mezzo ai campi, allora era un po' fuori mano, ecco. Ma e ti ricordi anche il nome? Tanto non ci sarà più, immagino. No, c'è, no, c'è. Non te lo dico. Ma scusami, c'è e lo fa ancora? No, non so se lo fa ancora, anche perché io francamente quella volta... Giustamente, non sei più tornata neanche per un piatto di spaghetti, però, c'è ancora. A dire la verità sono tornata perché al ristorante, perché era un ristorante dove vanno le comitive, è un ristorante molto grande. Ok, tavolate. Esatto, quindi molto grande. Poi fanno matrimoni e sotto c'era questa taverna. Ma quindi scusami, e funzionava che tu scendevi in taverna e ti mettevi al tavolo da solo con qualcuno, oppure era in piedi? Era una taverna molto grande, perché appunto il ristorante è molto grande, ed era arredato come le sagre paesane, sai, quei tavoloni e le panchine, quindi... Ah certo, quelli lunghi! Sì, esatto, quindi non era un tavolino proprio, sembrava una sagra paesana, insomma. E lì c'era gente, c'era anche lo spazio, penso che ballassero anche dopo, non ballavo, mi sono messa a chiacchierare nell'angolino da morire. Ma e quindi, guarda. Scusami, erano gli, ti imbarazza solo a ricordarlo, grazie. Sì, erano gli uomini che approcciavano le donne, come di solito succede? O... Ma era lì, c'era di tutto un po', nel senso che prima si è mangiato una pizza, non faceva ristorante, perché probabilmente lasciavano più spazio al dialogo, ad altro, insomma. Poi mi ricordo che c'era una signora molto ben vestita, molto metti, avrà avuto 45 anni. Cosa vuol dire di Malta Fina? Vuol dire proprio da noi, Malta Fina, si parla soprattutto per le signore, quando sono molto molto agghindate anche un pochino sopra le righe, sai. Ok, che va all'opposto di Mal, Malta grossa, no? No, da noi si dice proprio Malta fina, un termine così, proprio è tutto di Malta, è tirato a Malta fina, si dice, è molto elegante ma anche un... Ah, ok, è per il concetto di essere tirata a lucido, tirata bene bene, sì, ho capito, sì, ho capito. Un pochino volgare. Lo confondevo, ecco, lo immaginavo, lo confondevo con pasta grossa e grana fina. No. Senti, no, però Antonio, da quella sera ce lo siamo portati dietro poi alla fine. Portati dietro, ecco, fatalità, guarda, appunto come ti dico, non ci sarei tornata, solo che quando appunto avevo parlato con diverse persone, io appunto nell'angolino, un po' dimessa anche, non volevo portarmi più di tanto, questa persona appunto è molto garbata, e poi quando ho scoperto che abitava nel mio quartiere, ho detto, beh, questo è un segno del destino, insomma, perché... Insomma, non è possibile. Certo, eravamo diciamo, fuori mano, zona. Andiamo a cercare. Anche lui era la prima volta, quindi ho detto, ok. Senti, ma e quando vi vedete con Giulia, lui, ne parlate più? Dico, perché tu si fa finta niente. No, è rimasto, cioè, ecco, dopo noi siamo rimaste amiche, ci siamo frequentate meno, ma loro avevano, ecco, Antonio soprattutto aveva dei suoi amici, cioè abbiamo, poi io ho cominciato a frequentare quel famoso collega col quale vivo adesso, quindi la mia storia. Ah, infatti, questo volevo capire, il collega è diventato tuo compagno? Sì, assolutamente, dopo molti anni, perché io ero impegnata, avevo un bambino piccolo, quindi lui mi ha aspettato, quindi da 4-5 anni vivo con lui, ecco. Ma loro, ecco, loro non vivono insieme, però stanno insieme. Sì, insomma, diciamo che alla fine quell'uscita là, nella taverna, di notte, come dei carbonari, è servita, ha portato a casa il risultato. Assolutamente. È una sorta di speed date ante litteram, mi sembra di capire. Direi di sì, cioè uno speed date che invece che essere tirato a lucido, a Malta fina, uno di fronte all'altro per 2-3 minuti, quant'è? Tavole da sagre e poi insomma lì dove colgo più, cioè nel senso che vado un po' dove a conoscere. Senti, grazie a tu, sei in pensione adesso? Sì, sono in pensione. E come passi la tua giornata? Guarda, meravigliosamente, Matteo, perché sono felicissimo per te, grazie. Felicissimo. Ho corso tutta la vita, quindi adesso vado a fare la spesa con calma, cucino, mi piace cucinare con calma, e una cosa, coccolo il mio compagno. Ma il tuo compagno che lavora? No, anche lui è in pensione. Anche lui eravamo colleghi, anche lui siamo andati in pensione insieme. Quindi me lo coccolo. Sembra davvero splendida l'età della pensione vista da qui, grazie, veramente, vista dalla tua prospettiva. Veramente. Senti, ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera, per la storia e insomma, che dire, complimenti al tuo compagno che ti ha trovata. Beh, anch'io ho trovato lui, che è una persona speciale. Saluta anche Giulia e Antonio. Ciao, grazie. Buona serata. Grazie. Ciao. A Livorno, Andrea scrive, vengono definite attoppate. No, aspetta, attoppate con una P o con due P, ma a Livorno non si dice aspetta, a Livorno sto dicendo una cosa volgarissima, non la dico, ok, perché mi ricordavo un termine livornese, ma non la dico, Bonini, non la dico. Grazia e il suo compagno, reciprocamente fortunati, nella foto che trovate sul sito di Radio 24, nella nostra pagina, nel nostro spazio, sono in casa, immagino in casa loro, c'è una tovaglia sul tavolo, sapete, di quelle tovaglie cerate che si tengono solo in alcune case, sempre sul tavolo. Ci sono alcune case in cui non si vede mai il legno della tavola, c'è sempre su una tovaglia. Ecco, questa è una di quelle case. Alle loro spalle hanno un vetro, delle tende che coprono dalla luce, e sulla sinistra una libreria, sulla destra invece, impeccabile e pronto all'uso, un aspirapolvere. Sensale. Sostantivo maschile e femminile. Mediatore in contrattazioni di prodotti agricoli e zootecnici. Sensale marittimo. Mediatore nel campo dei traffici marittimi. Sensale di matrimoni. Combinatore di matrimoni. Paraninfo. Il paraninfo che cavolo è, scusate? Etimo dall'arabo simsar, mediatore, data secolo XIV. Grazie mille ad Alessandra De Luca che ormai spiega, torna indietro, capisce, percepisce e ci racconta ogni giorno i termini che scopriamo e che danno il titolo più o meno alla puntata. Allora, arrivano un sacco di messaggi che mi spiegano come si dice dalle loro parti o addirittura spiegano che cosa significa. Tecnicamente la malta fina è l'ultimo strato di intonaco che rende liscia una parete. Quindi probabilmente è che copre anche un po' i, no, gli errori. Sì, un po' di trucco, che copre le smagliature della parete, diciamo. Invece Adriano mi scrive: nella bassa bergamasca si dice messa giù da pista. Questa è abbastanza comune, messa giù da gara. E poi niente, ragazzi, non ce la si fa, non ce la si fa. Se si sente una persona che è in pensione, ma anche che non è in pensione, e che è felice, questa roba ti fa comunque un po' girare le palle. Messaggio: quanti anni di contributi è andata in pensione la signora? Un'altra baby pensionata? Niente, grazie, mi spiace. Se, guarda, grazie, se tu avessi fatto tutta la telefonata con il broncio e avessi detto che eri in pensione, ma che avresti lavorato di più, che avevi lavorato tutta la vita e che non eri contenta della pensione, probabilmente qualcuno sarebbe stato più tranquillo. Così no, è che la felicità delle altre persone sempre un po' ti sta qui sul gozzo. 349-238-6666, però si parla di quello in realtà, si parla di mettere in gioco il proprio corpo, la propria persona, la propria reputazione per aiutare un amico. E mi scrive Andrea: io una volta in montagna, durante una nevicata, ho preso lo zaino di un amico assieme a un altro mio amico che era con noi e abbiamo fatto 4 km nei boschi con uno zaino in più oltre ai nostri e l'abbiamo trasportato in due con un bastone. Cosa vuol dire abbiamo trasportato in due? Lo zaino lo tenevano a bastone, ok, credevo l'amico. E abbiamo salvato il nostro amico che era stremato e addirittura voleva chiamare l'eli soccorso. Allora, hanno portato lo zaino in due e l'amico è andato a piedi, però. Perché me lo vedo appeso così, come un cinghiale. Ma no, però, immagino di no. 349-238-6666. Vi dicevo, questa mattina è arrivata una mail che mi ha mandato Gianluca e che ho pubblicato anche sul profilo Facebook, chiedendogli ovviamente il permesso e chiedendogli di poter citare il suo nome e tutti i riferimenti. Questa è una mail che può essere controversa, ma no, ma direi neanche... Oddio, conoscendo ogni tanto alcuni ascoltatori sicuramente può essere controversa, ma non credo che lo sia. È però quello che dicevo prima, cioè che probabilmente per misurare il grado di capacità di mettersi in gioco per un amico bisogna trovarsi in una determinata situazione, e lui si è trovato in una situazione di quel tipo lì, cioè dovevano scappare, c'era della gente che arrivava che era poco amichevole nei loro confronti e lui doveva decidere se aiutare il suo amico oppure no, e nel momento in cui l'ha aiutato ha capito una cosa. Ho sempre sottovalutato il valore che il corpo ha per me. Faccio finta che non sia importante, se non per infilarmi il costume da bagno in estate o avere degli abiti che mi calzino a puntino. Per me, mettersi in gioco non ha mai avuto a che fare con il corpo, ma solo con l'impegno intellettuale ed emotivo. È sempre stato rimanere vicino all'amico mollato dalla fidanzata o accompagnarla a fare un esame che lo preoccupa. Poi c'è stata Genova 2001. È inutile ricordare cosa è successo. Io ci ero andato perché avevo 20 anni e mi sembrava giusto essere là, anche se le cose andavano comunque in un'altra direzione, anche se non serviva, anche se non sapevo bene il perché. Io non volevo sabotare nulla, non volevo rompere vetrine e tantomeno incendiare automobili, volevo esserci ed esserci con il mio corpo e non solo con la mente, con lo spirito, con il pensiero. Non ci andai da solo, eravamo in quattro. L'aria, si sa, si fece attesa sin da subito, ma all'inizio il clima era ancora piacevole. Con gli altri tre eravamo contenti di essere lì. Il secondo giorno invece le cose precipitarono. Due di noi tornarono a casa. Io invece seguii Fulvio, che tra noi era quello più deciso a rimanere. Quando, dopo qualche ora, ci trovammo in mezzo al corteo spezzato in due sotto una carica della polizia, ho avuto il tempo, anche se brevissimo, forse uno o due secondi, di capire che cosa significava mettermi in gioco per un amico. Mettere davvero in gioco il mio corpo, intendo. In quei due secondi capii che non l'avevo mai realmente capito. Perché quando, scappando dalla carica, Fulvio inciampò in una bicicletta ribaltata e si trovò per terra, io ebbi il tempo di realizzare che avevo due possibilità. La prima era continuare a correre ed evitare di prendere calci e manganellate. La seconda invece era tornare indietro, aiutarlo a sollevarsi e a scappare, rischiando però di prendermeli pure io, i calci e le manganellate. Ovviamente tornai indietro. Raccolsi Fulvio da terra e riuscimmo anche ad evitarli i calci. Le manganellate no, quelle un paio arrivarono e lasciarono pure i segni per una settimana. E sai cosa ho capito mentre scappavamo con Fulvio? Ho capito che nel momento in cui lo fai, mettersi in gioco per un amico non è qualcosa che ti fa paura. Non la senti la paura. Quello che accade è che il tuo corpo all'improvviso diventa meno importante. E allora percepisci tutta la stupida ed eccessiva attenzione che gli avevi dato fino a quel momento al tuo corpo. Come a dire che quando davvero devi usarlo il tuo corpo, finalmente perde importanza e rimane solo utile. Gianluca. Il tema di oggi in realtà è la malta fina, non è aiutare gli amici o mettersi in gioco. A Roma vengono definite ritargate e poi ritargate con la G. E poi a Torino la malta fina oltre i 55 diventa una ciamporgna. Ciao Massimo, sono arrivati anche dei messaggi che parlano della storia di Gianluca, quella che vi ho appena letto e che riguarda Genova 2001 e che riguarda il mettersi in gioco. Natalie scrive: anch'io ho il mio Fulvio ed è una Chiara. Ne abbiamo passate molte insieme, condividiamo ogni giorno di questo mondo sulla terra. Ringrazio ogni momento di averla accanto, passo dopo passo. E poi invece c'è qualcuno che c'è stato a Genova e che ne parla. Alessia: anch'io ero a Genova, anche per me è stata un'esperienza che mi ha cambiato profondamente. Sto ancora arrancando come adulta nel cercare di dare un senso a quei fatti. Sto ancora cercando di riconciliarmi con questo paese. Credo riconciliarmi e non rincoglionirmi. Credo perché, ok, riconciliarmi. E addirittura un altro che però ha un nome strano e quindi non lo leggo, scrive: grazie Gianluca, grazie per avermi fatto capire qualcosa in più anche della mia esperienza a Genova 2001. Visto che arrivano un sacco di messaggi che mi chiedono: ma sarete in onda anche a Natale? La risposta è sì. Lentamente e inesorabilmente, tutti i giorni, Natale e Capodanno. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina e grazie a Fabio Cantadori. Grazie soprattutto a Grazia. E chiedo scusa, non volevo farlo. Ringrazio Grazia, anche lei, questa era la sua storia e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Giuseppe, parlo da Montelabate in provincia di Pesaro. La storia di domani è la mia storia ed è la storia raccontata a nome di Luca e di Adua. Questa è la mia storia e io sono qui.